2024 2024 di Enrico Pagliarini. Giustamente Valeria Bernardi, che oggi si occupa della parte tecnica, ci chiede, e lo chiederemo più tardi a Gianfranco Giardina, dove sono finiti gli OLED che erano stati annunciati per la primavera e ancora non si vedono? TV con caratteristiche eccezionali annunciati, ma ancora sul mercato non si vede nulla. Erano stati ampiamente mostrati lo scorso Consumer Electronics Show di Las Vegas e quest'anno probabilmente torneremo, gli esperti, i giornalisti torneranno al Consumer Electronics Show per rivedere forse le stesse cose. Ne parleremo più tardi. Questo è 2024, la puntata dell'8 dicembre 2012, siamo in diretta anche oggi, il nostro numero verde per chiamarci, per le vostre domande e anche per le vostre considerazioni è 800240024. Se ricordate bene, due mesi fa l'amministratore delegato di Telecom Italia, Marco Patuano, proprio al microfono di Radio 24 a 2024, annunciava, rassicurava che entro l'anno sarebbero partiti i primi servizi di connettività in fibra ottica di Telecom Italia. Allora, questa settimana l'azienda ha lanciato l'offerta in via sperimentale, si tratta di una sperimentazione perché l'autorità per le comunicazioni, la GCOM, ha autorizzato l'allaccio di sole 40.000 unità abitative, perché sulla fibra ottica manca ancora una parte di regolamentazione importante, quella che garantisce parità di accesso alla rete Telecom anche agli altri operatori. Comunque, è partita questa offerta, quindi promessa mantenuta, anche se poi si tratta di fibra ottica fino ad un certo punto, perché stiamo parlando di una tecnologia che tecnicamente, ma ve lo dico così, imparate, per chi non lo sapesse ancora, FTTC, Fiber to the Cabinet o to the Curb, fino al marciapiede, cioè la fibra arriva fino all'armadio, se ne vedono tanti in giro per le strade, quelle di Telecom Italia, poi da lì parte il doppino di rame, quindi a casa nostra arriva sempre il doppino, è per questo che alcuni esperti, direi molti esperti, dicono che questa è una tecnologia che non guarda molto al futuro, però è la tecnologia scelta da Telecom Italia perché si fa un po' prima a cablare le città e costa un po' meno. Allora, l'offerta ha debuttato a Napoli, Roma, Torino e nelle prossime settimane il servizio verrà esteso anche a Bari, Bologna, Genova e Milano. Un'offerta che prevede velocità di 30 megabits al secondo in download e 3 megabits in upload. Normalmente invece le offerte in fibra sono simmetriche, comunque questa è l'offerta. Un costo che per la sola connettività ad internet, quindi solo internet, costa 50 euro al mese, al netto delle offerte dei primi mesi. Allora, con lo stesso prezzo, questo è indicativo, nelle zone già raggiunte da Fastweb in fibra, tipicamente Milano e alcuni centri di alcune altre città, si possono avere 100 megabits, quindi stesso prezzo ma invece che 30 megabits, 100 megabits. E poi vedremo anche quali saranno le offerte, questo sarà molto interessante, le offerte fatte da Vodafone e Wind, che ricorderete hanno firmato un accordo con Metroweb, quindi sfrutteranno la rete in fibra ottica di Metroweb partendo da due o tre città, naturalmente Milano sarà la prima fra qualche settimana, mese, insomma comunque a cavallo di quest'anno o all'inizio del prossimo anno vedremo le prime offerte. E in questo caso, quindi nelle offerte di Fastweb e le offerte che arriveranno sia di Vodafone e Wind, parliamo di FTTH, Fiber to the Home, cioè la fibra che arriva direttamente nel nostro appartamento, e c'è una bella differenza soprattutto in prospettiva. Comunque questo è indicativo su come si muove il mercato. Una cosa che diciamo spesso a 2024, ma non solo, se vogliamo che internet si diffonda dobbiamo sia costruire nuove reti, quindi ben vengano questi annunci fatti dalle varie società di telecomunicazioni, ma anche dobbiamo naturalmente coprire le zone in digital divide, ma questo è un capitolo a parte, ci dovrebbe pensare alla finanza pubblica e molto è stato fatto in questi ultimi mesi, e direi anche che su queste zone ci sono molti servizi wireless che possono coprire il territorio. Ma un'altra cosa che dovrebbe essere fatta, e lo diciamo spesso, è abbassare il prezzo della connessione ad internet. Ma attenzione, perché un orientamento del commissario europeo per l'agenda digitale Neelie Kroes potrebbe fare pendere l'ago della bilancia verso le grandi società di telecomunicazioni come Telecom Italia, quindi gli ex monopolisti, piuttosto che verso i consumatori. Quindi tutto ciò potrebbe tradursi con un aumento del prezzo della connettività. Allora, entro la primavera è attesa una raccomandazione che influirà sulle dinamiche del mercato delle telecomunicazioni europee. I più critici, quelli un po' più preoccupati, sostengono che possano aumentare appunto i prezzi dei collegamenti ad internet, ma soprattutto potrebbe diminuire la concorrenza. Innocenzo Genna è membro del board, direttore esecutivo di EuroISPA, che è l'associazione europea degli Internet Service Provider. Dunque, fondamentalmente questa raccomandazione chiederà alle autorità nazionali dei 27 paesi di stabilizzare il prezzo d'accesso alla rete telefonica, cioè quella rete che gli operatori storici hanno ereditato dal precedente monopolio e che era stata costruita con le tasse dei contribuenti. Quindi questo prezzo di accesso, che è quello che viene pagato dagli operatori alternativi e ribaltato sui consumatori, dovrà rimanere stabile o addirittura aumentare nei prossimi 8 anni. Ricordiamo che stiamo parlando di un prezzo regolamentato e su questo siamo tutti d'accordo, non stiamo a entrare nel dettaglio del perché è regolamentato, ma c'è un motivo serio fondato e questo prezzo naturalmente è il prezzo all'ingrosso che gli operatori alternativi, quando ci offrono la DSL, devono pagare, su quello poi vengono costruite tutte le offerte. Se ben capiamo, questo prezzo sarà regolamentato e ci sarà un'indicazione forte attraverso questa raccomandazione. Allora, è necessario che sia regolamentato perché queste reti telefoniche sono un monopolio di fatto. Non è possibile duplicarle per ragioni ovvie, come sarebbe come duplicare autostrade, la rete elettrica, la rete del gas nell'ultimo miglio, non è possibile. Però, essendo vecchi investimenti, normalmente il prezzo dovrebbe scendere quasi verso lo zero, cioè dovrebbe essere solo il costo della manutenzione. Appunto perché si tratta di vecchissimi investimenti. Invece la COES dà un'indicazione in controtendenza, vuole mantenere alto questo prezzo o addirittura farlo aumentare. Perché? Perché lei è convinta che gli operatori storici, guadagnando più soldi, investiranno questi extra profitti in reti in fibra, che sono le reti che dovrebbero a loro volta sostituire le reti telefoniche. Il problema è che non si capisce come mai un operatore storico molto ricco debba a un certo punto spegnere la rete telefonica che gli dà tanti soldi per costruire un'altra. Cioè, logica vuole che uno continui a sfruttare una qualsiasi infrastruttura, anche vecchia e obsoleta, ma che dà molti profitti. Quindi manca questo meccanismo di trasferimento di risorse da la rete tradizionale ha nuovi investimenti in fibra ottica, di cui, lo diciamo sempre, lo si dice in tutta Europa, in tutto il mondo, c'è una grande necessità, un gran bisogno. Questa raccomandazione però non è già stata scritta, quindi ci sono, immagino, ancora margini per modificarla, cambiarla. Secondo me no, perché normalmente quando la Commissione vuole sentire cosa ne pensa il mercato indice una consultazione, qui invece sembra che il commissario Kroes voglia andare di corsa, ha escluso una consultazione, ha chiesto al BEREC un'opinion, questo lo deve fare per forza, il BEREC è l'Agenzia Europea dei Regolatori Nazionali, e intende emanare un atto definitivo entro aprile-maggio. Permetti di dirmi che è una situazione molto singolare, perché qui a Bruxelles si fanno consultazioni su tutti gli argomenti continuamente, anzi la gente si lamenta a volte che si consulta persino troppo prima invece che decidere. Qui invece siamo di fronte a una decisione che avrà un impatto epocale, copernicano su un sistema, e si va avanti senza sentire nessuno. Sì, quindi diciamo lo scenario più probabile quale potrà essere? Ammesso poi che i regolatori nazionali prendano questa raccomandazione per oro colato, poi non so quali margini ci sono per modificare in meglio o in peggio questa raccomandazione. Allora, dal punto di vista della Croes sembra che non ci siano margini per modifiche, perché è evidente l'intento di andare avanti con le idee che intende perseguire. Sicuramente i regolatori nazionali non saranno d'accordo, perché normalmente mal sopportano ovviamente direttive troppo stringenti che vengono dall'alto, ma qui soprattutto quello che si sta dicendo il prezzo che i regolatori devono applicare per un periodo lunghissimo, e questa è una forma di dirigismo centralizzato, molto inusuale a livello europeo, e quindi i regolatori non ameranno molto. Quindi mi aspetto comunque che il BER, che questa agenzia, dia un parere in quale sollevi vari dubbi. Beh, poiché questa raccomandazione ha anche degli impatti sul mercato, inteso come competizione tra vari attori, tra varie aziende, sarà interessante conoscere anche gli orientamenti dell'antitrust europeo. Ricordiamo che il commissario europeo per la concorrenza è Joachim Almunia. Digital News. Apple e Google, che di solito sono nemici, quasi nemici, si sono accordati per lanciare un'offerta condivisa da oltre 500 milioni di dollari per acquistare i brevetti della Eastman Kodak. Le due aziende si erano sfidate quest'estate, guidando due consorzi separati per acquistare i 1100 brevetti di Kodak, che punta ad uscire dalla bancarotta nella prima metà del 2013. Digital News. Una nuova rapina digitale è stata scoperta questa settimana, è stata battezzata come Eurograbber perché riguarda 30 banche europee e ha fruttato un bottino di 35 milioni di euro. L'attacco digitale è partito dall'Italia, ma non è detto, anzi probabilmente è escluso, che i criminali siano nel nostro paese. È più facile che si tratti di un gruppo che sfrutta le vulnerabilità di computer e smartphone italiani. Come sempre, il consiglio è quello di aggiornare costantemente il proprio software e proteggere sia i computer ma anche i terminali mobili con antivirus. Digital News. In un'intervista a Bloomberg Business Week, che potete leggere, una bella e lunga intervista, e anche alla rete televisiva NBC, Tim Cook, che è il capo della Apple, ha svelato che l'azienda sta lavorando e investendo 100 milioni di dollari per portare la produzione della nuova linea di Mac negli Stati Uniti. Vedremo se questo sarà un segnale di un trend che si consoliderà nei prossimi anni. Certo è che alcuni studi indicano che il 40% delle grandi imprese industriali americane prevede un rimpatrio anche parziale della produzione. Allora, che Samsung abbia copiato in alcune occasioni è noto, in alcuni casi lo hanno stabilito anche i tribunali, in altre occasioni è stata riconosciuta l'originalità dei prodotti. Certo è che il vizio di ispirarsi pesantemente alla Apple i coreani non lo hanno perso. Allora, questa settimana è stato inaugurato a Parigi il primo Samsung Mobile Store e in rete naturalmente non sono mancati commenti di chi nota somiglianze molto marcate. Digital News. Andate su internet a guardare le fotografie, se siete stati in un Apple Store potete notare appunto la somiglianza. Ultima notizia tra le nostre Digital News: 254 siti di commercio elettronico su 333 controllati dalla Commissione Europea in 26 paesi comunitari sono risultati irregolari. Pensate, si tratta del 75%. Allora, in alcuni casi le mancanze sono abbastanza leggere, le mancanze più frequenti riguardano tuttavia la mancanza di adeguate informazioni come quelle sulla garanzia, il diritto di recesso, eccetera, eccetera. Noi ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, tra poco parliamo di tecnologia NFC e più tardi invece parleremo di TV, una guida all'acquisto per capirci qualche cosa e anche per chiederci dove sono sparite le tecnologie annunciate mesi fa dai produttori. A tra poco. 2024. Torniamo a parlare della tecnologia NFC, Near Field Communication. Tra le caratteristiche di molti nuovi smartphone, l'avrete visto negli ultimi mesi, si è aggiunta questa nuova sigla, NFC. Allora, un chip già presente in carte di pagamento, badge aziendali, abbonamenti a mezzi pubblici, eccetera, eccetera, che è stata inserita nel telefono. Ci permetterà di fare tante cose, come ad esempio, se ne parla tantissimo, effettuare pagamenti. Allora, i primi servizi commerciali dovrebbero partire nel corso del prossimo anno, più facilmente verso la seconda metà dell'anno. Il sistema è molto complesso, dietro a un'azione molto semplice c'è un sistema molto complesso, ci sono molti attori. Si possono fare tante cose con questa tecnologia, ad esempio dematerializzare, cioè virtualizzare un buono pasto integrandolo nel cellulare, ma questo è uno dei tanti esempi, poi bisogna usare un po' la fantasia per inventarsene altri. Allora, sui buoni pasto è partita una sperimentazione a Milano pochi giorni fa, una sperimentazione che coinvolge, a proposito della catena di attori, Edenred, che gestisce buoni pasto, Ingenico, che produce POS, sistemi di terminali per il pagamento, RIM, cioè Research in Motion di BlackBerry, e anche Reply, che è un integratore di servizi. Ne abbiamo parlato con Andrea Keller, che è direttore Smart Solutions di Edenred Italia. È effettivamente una sperimentazione che è partita esattamente il 4 dicembre e che ha come vocazione di, come diceva giustamente, virtualizzare uno dei servizi più utilizzati dai dipendenti in Italia, che è il Buono Pasto, il servizio Ticket Restaurant. In pratica questa sperimentazione implicherà una settantina di beneficiari selezionati, con 60 esercenti che saranno dotati di terminale POS apposito per gestire quindi il pagamento NFC, e ha come vocazione di valutare come l'esperienza di acquisto relativa al Buono Pasto possa essere migliorata e arricchita attraverso i nuovi smartphone che sono oggi disponibili, direi, su larga scala. Naturalmente il tutto è molto semplice, perché uno potrebbe dire, una volta che voi e i vostri partner hanno virtualizzato il Buono Pasto, uno arriva alla cassa e invece di consegnare il Buono Pasto mette il telefono su un terminale di lettura, su un POS, una specie di POS, il Buono Pasto viene letto e poi uno va a pranzare o a cenare. Però noi le vogliamo chiedere qualche cosa in più sulla tecnologia. Quali sono i tasselli principali di tutto ciò? I tasselli principali, giustamente, come diceva lei, questa tecnologia punta a modificare un po' tutta l'esperienza di acquisto. Per poterlo permettere abbiamo differenti elementi tecnologici. Abbiamo il terminale di pagamento, che è un terminale che deve essere compatibile con questa tecnologia del pagamento mobile, ed è un terminale fornito da uno dei nostri partner, che è Ingenico. Abbiamo lo smartphone, che è uno smartphone BlackBerry di modello Curve 9380, che permette di scaricare l'applicazione Ticket Restaurant Mobile e quindi di utilizzare il servizio. E poi abbiamo ovviamente tutti i sistemi centrali, che sono i sistemi che noi abbiamo fatto in collaborazione con la Reply e che permettono di consultare quali sono le credenziali dell'utente e quanti voucher il beneficiario ha a disposizione. Mi diceva giustamente lei, il pagamento è uno degli aspetti che vogliamo testare e funzionava esattamente come lei ha detto: avvicino il cellulare al terminale di pagamento e se le credenziali, diciamo, sono a posto, il pagamento si effettua e c'è lo scontrino che è stampato. Noi vogliamo però anche andare a studiare dei benefici molto più ampi nella filiera. In particolare, il pagamento oggi noi non lo consideriamo più come un atto isolato, ma comunque cosa di integrato ad altri elementi, diciamo, del comportamento di acquisto. Per esempio, la geolocalizzazione è uno dei servizi che è integrato nella nostra applicazione, che permette la ricerca del locale. Un secondo servizio è per esempio la possibilità di consultare dei consigli nutrizionali, che permette quindi a un dipendente di essere aiutato nella scelta di quello che può mangiare durante la pausa pranzo, in un'ottica, diciamo, di salute. E infine, dopo il pagamento, c'è anche la possibilità di connettersi a Facebook, per esempio, e di condividere con la propria comunità, attraverso questo canale social, i propri commenti sull'esperienza, diciamo, nel punto vendita, nel ristorante che si è utilizzato. Senta, se lei dovesse riassumere i principali vantaggi che avete voi come azienda che emette i Buoni Pasto, l'azienda che deve acquistare i Buoni Pasto per girarli poi al dipendente, e il vantaggio del dipendente, che in parte poi ci ha anche riassunto nelle sue ultime parole, però per quanto riguarda le aziende, qual è il vantaggio principale? Per quanto riguarda le aziende, il processo di virtualizzazione di questo servizio porta a eliminare in modo evidente tutta la logistica del Buono Pasto. Il Buono Pasto deve essere consegnato ai dipendenti una volta al mese. È evidente che una consegna fisica e una distribuzione attraverso le buste paga ha una pesantezza logistica di altro tipo rispetto a un servizio digitale, che quindi non presuppone nessuna distribuzione fisica. Questo è il vantaggio più evidente per le aziende. Per i beneficiari, i vantaggi sono un pochino quelli che ho citato prima, sapendo che si aggiungono al fatto che gli smartphone oggi racchiudono un piccolo mondo nella propria tasca, e quindi il vantaggio non è solo diretto sull'acquisto, diciamo, diciamo, l'utilizzo del buono pasto del ticket restaurant, ma è un vantaggio anche derivato dal fatto che veramente io, beneficiario, ho un device che racchiude un pochino tutti i miei servizi, ticket restaurant e altro. Mentre invece per quanto riguarda ad esempio i merchant, anche in quel caso possiamo avere innumerevoli vantaggi, perché oggi per esempio i ticket restaurant cartacei presuppongono un trattamento amministrativo a valle, un rinvio per il rimborso. Ovviamente tutte queste attività di conteggio e di rimborso del servizio, diciamo, che si è erogato, vengono dematerializzate con un'accelerazione del processo e una semplificazione quindi di tutte le procedure. Abbiamo parlato di questa sperimentazione anche per ricordarvi che questi servizi arriveranno, ma per arrivare ad erogare questi servizi con un'offerta commerciale, e stiamo parlando anche di servizi di pagamento, è necessario un accordo tra tutti gli attori che devono lavorare insieme per bene. E anche perché quando parliamo di buoni pasto o pagamenti, stiamo parlando di servizi che devono essere erogati in modo certo. Non è che io posso perdere un buono pasto o perdere un pagamento fatto con lo smartphone. Quindi tutta la filiera e tutti gli attori tecnologici, ma non solo tecnologici, devono funzionare, e questo deve essere fatto con garanzie e affidabilità. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, parliamo del mercato dei televisori. In questa seconda parte il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800240024. Ci sono altre modalità, gli sms 349-238-6666, anche Twitter e Facebook, oppure l'email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica. Oggi siamo contornati da donne, solo donne. Oltre a Valeria c'è anche Nadia Zammitti che ci aiuta in regia, e una menzione la lasciamo anche per Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Gianfranco Giardina è il nostro esperto di tecnologie, in modo particolare audio video digitale, in questo caso audio video digitale. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, tu sei il direttore del magazine digitale dday.it e proprio in occasione di questa puntata di 2024 hai, diciamo, recuperato, comunque fatto, messo un po' più in alto, in home page, diciamo, messo in evidenza una guida, visto che voi fate delle belle guide all'acquisto. Oggi abbiamo scelto di dedicare questa puntata alla guida all'acquisto di TV plasma o LCD, che è una delle domande che sicuramente ci faremo. Però prima volevo chiederti qualche novità su una puntata che abbiamo fatto un paio di settimane fa, relativa alle interferenze, visto che in qualche modo poi si parla sempre di TV, quindi i temi si collegano. Le interferenze provocate dalle reti 4G di telefonia mobile, quelle che verranno accese sulla frequenza 800 MHz, che disturberanno, poi vedremo quanto disturberanno, il digitale terrestre, alcuni canali televisivi. C'era un tavolo che è saltato, perché il nodo della questione è chi aggiusta l'impianto d'antenna che mi viene disturbato. Eh sì, chi ripara al disturbo. Ripristina. Bisognerà vedere proprio come saranno questi disturbi, lo sapremo soltanto dopo le prime accensioni. Sicuramente gli impianti, quelli vicino agli impianti di trasmissione, cioè le antenne vicino agli impianti di trasmissione, dovranno essere filtrati. Questa è una cosa che può anche essere semplice, no? Certa, ma può anche essere semplice. L'applicazione di un filtro, non un filtro banale, un filtro sicuramente buono, sofisticato, quindi di un costo che per un impianto condominiale diventa trascurabile. Un buon filtro può costare 100-150 euro. Un filtro scadente può costare anche 10-15 euro, ma può non proteggere da questi disturbi. Bisognerà anche vedere appunto che tipo di filtro serve e se il filtro basterà o se le vulnerabilità dell'impianto staranno altrove. Quello che sembra ormai certo è che le telecom interverranno soltanto a livello del filtro a monte dell'impianto, quindi subito dopo l'antenna applicheranno questo filtro. Se poi ci saranno altri problemi, questo temiamo che sia poi onere dei singoli cittadini provvedervi. Sì. Questo su questo non abbiamo ancora delle certezze, perché c'era un tavolo all'interno del quale si stavano discutendo queste cose. Questo tavolo al momento è, non so se dire, proprio saltato o sospeso o in attesa Allora, il principio che siano le telecom a pagare, tutto sommato, sembra abbastanza riconosciuto. Confermato, sì. Quello che invece non è riconosciuto è come si divideranno le telecom queste spese, mm-hmm. perché una delle frequenze che disturbano maggiormente è di Wind. Mm. E quindi gli altri due operatori coinvolti, cioè TIM e Telecom e Vodafone. Sì. Dicono appunto che dovrebbe essere Wind a sostenere la maggior parte dei costi, e Wind non è così d'accordo, e quindi su questo stanno discutendo, e questa trattativa appare saltata. Di certo, se verrà applicato il principio che c'è stato spiegato anche dalla Fondazione Ugo Bordoni durante la trasmissione di un paio di settimane fa, cioè quello che chi disturba paga, il sospetto è che le telecom aspetteranno ad accendere per non essere le prime a disturbare, visto che esatto. in realtà sarà il primo che accende che darà fastidio agli impianti. E quindi può essere anche che i tempi di accensione, che ricordiamo le telecom possono dal 1 gennaio prossimo accendere, ma non sono certo obbligate a farlo, e quindi potrebbero dilazionarsi un po' più avanti, anche in attesa che i device LTE certo. si diffondano di più. Ricordiamo che per esempio adesso iPhone 5 o anche il nuovo iPad, quindi i device Apple, non sono compatibili con la frequenza 800, quindi non trarrebbero alcun giovamento dall'accensione di queste frequenze. Sono compatibili con la frequenza 1800, su cui sono stati già accesi alcuni impianti, certo. diciamo, in alcune ma città. Lì non c'è il disturbo del TV. Però esatto. c'è una nuova notizia, nuovissima, fresca. Su che frequenza? Sul 1800. Sul 1800. Abbiamo provato il 1800 con Vodafone. La so cosa vuoi dire. Nello specifico. E abbiamo scoperto una cosa che complica ancora di più lo scenario. Il 1800, cioè questo 4G va molto bene, abbiamo misurato nel nostro ufficio delle velocità anche vicine ai 50 megabit in download, quindi incredibile, tutto eccellenti. Rispetto. Peccato che all'inizio andavano molto male, invece intorno ai 10 megabit, e quindi non eravamo molto soddisfatti. Abbiamo provato a spegnere una wifi del nostro ufficio e di colpo il 4G è incominciato ad andare a 50. Su che frequenza è? In realtà il wifi quello funziona sui 5 GHz, però non è che abbiamo capito la natura di questa interferenza, ma sicuramente abbiamo determinato che la presenza di quella wifi nel nostro ufficio determinava un forte rallentamento del 4G. Quindi per la serie, chi la fa l'aspetti, il 4G disturba la TV, ma qui sembra che il Wi-Fi disturbi il 4G, ma faremo ulteriori approfondimenti e chiederemo questo dubbio. Sì, sicuramente vale la regola, che per me è una delle prime regole: laddove è possibile utilizzare il cavo, usiamo il cavo. Assolutamente. Però certo, in mobilità... E ne parleremo anche per la TV, dove è possibile collegare esatto. la TV alla rete via cavo. È certo. E la TV è avvantaggiata perché la TV sta ferma. Attualmente uno smartphone non sta fermo, si muove, ci vorrebbe una prolunga molto lunga. Senti Gianfranco, ti lancio subito una provocazione. Noi, visto che tu diciamo, hai già i biglietti in mano, stai per partire fra un mesetto circa per il Consumer Electronics Show, che è la più grande fiera, ormai forse l'unica grande fiera dove qualcosa viene annunciato. Allora mi ricordo che l'anno scorso tu ci parlavi delle TV OLED, quindi dei TV con questa nuova tecnologia che avrebbero sbaragliato il mercato, sostituito sia LED che plasma, eccetera, eccetera. Ma dove sono spariti? È una bella domanda, se la sono chiesta in tanti. La tecnologia è stata dimostrata, esisteva a Las Vegas, è riesistita all'IFA di Berlino, un'altra fiera che si tiene invece a fine agosto, inizio settembre, ma addirittura ci sono stati fatti dei lanci diciamo di comunicazione, non di pubblicità, ma la presentazione alla stampa di prodotti finiti, e però non sono mai arrivati sul mercato. I motivi possono essere molti, sicuramente due: qualche difficoltà di produzione, come sempre quando si inizia una nuova tecnologia, e sicuramente anche i venti di crisi hanno forse consigliato di spostare un po' più in là il lancio di un prodotto che arriva sicuramente arriverà nel 2013, anzi è già confermato che arriverà nel 2013, ma con dei prezzi di ingresso importanti, molto alti. Si è parlato per i TV 55 pollici, sono stati dimostrati di prezzi intorno ai 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euro. Quindi prezzi sicuramente molto rilevanti, direi da non considerare in concorrenza con gli attuali TV. Sì. Direi che il mercato si spacca un po' in due, cioè senti, chi potrà acquistare un OLED probabilmente potrebbe anche avere delle disponibilità finanziarie anche per sostituire un TV che anche uno o due anni non importa, e invece chi è un po' più attento alla spesa, necessariamente devo dire attento alla spesa, l'OLED lo guarderà nei negozi per un po'. Sì. Ferrari diceva sempre che 10.000 pazzi nel mondo si trovano sempre. Certo, il mercato degli OLED si rivolgerà a qualche numero in più di 10.000, però per forza, sì, se no non potrà mai decollare, sì, perché ci sono i problemi. Senti, è corretto dire che i prezzi dei TV in generale, quindi stiamo parlando LCD, plasma, oggi sul mercato è crollato negli ultimi mesi o esagerato? Esagerato forse, dire crollato negli ultimi mesi, ma sicuramente è corretto dire crollato negli ultimi anni, negli ultimi due anni direi. Ecco, io riporto sempre questo paragone perché la memoria sui prezzi tende sempre a essere un po' labile. 10-12 anni fa, e quindi parliamo di epoche in cui il potere d'acquisto poteva anche essere diverso, un TV 32 pollici, che adesso è considerato un TV per la camera da letto, un piccolo TV, era nei top di gamma, perché al tubo catodico lo schermo più grande, a parte qualche 36 del 32, i top di gamma costavano intorno ai 5 milioni di lire o più. No? E quindi parliamo di 32 pollici con delle funzionalità ridicole rispetto ai TV di oggi, senza ingressi digitali, in bassa definizione, senza collegamento internet, senza preso USB, senza 3D, senza tutto quello a cui siamo molto abituati, e costava decisamente di più di quello che costa un 32 pollici oggi, ma direi anche un 40, un 46 pollici oggi. È difficile, molto difficile stare sopra i 2000 euro se non si va su un 50-55 pollici e anche top di gamma, molto importante. Si trovano oramai TV per tutti i prezzi, per tutti i gusti, di tutti i prezzi. Bisogna stare un po' attenti perché è evidente che un TV da 500 euro è molto diverso da un TV da 2000 euro a pari pollicciaggio. Quindi non sono due prodotti uguali. Manca un po' la fascia centrale dei prezzi. Cioè c'è un po' questa spaccatura, perché ci sono i prodotti di volantino che sono a prezzi molto convenienti, e poi se si vuole però la qualità vera bisogna andare sui top di gamma, sono un po' più costosi. Sta succedendo quello che sta succedendo in molti altri settori, devo dire ahimè anche nella società. Il nostro numero verde per parlare di questo tema, di TV in generale, per le vostre domande, le vostre considerazioni, 80024 0024, tra poco. 2024. Oltre che al numero verde potete partecipare alla nostra trasmissione anche con gli SMS oppure con Twitter. Stavo dicendo a Gianfranco Giardina che io e lui siamo un po' all'opposto, perché io ho fatto chiocciolina e underscore Pagliarini e lui invece chiocciolina Giardina underscore G. Sì, che è messo l'iniziale dall'altra parte. Vabbè, comunque non succede nulla, va benissimo. Potete partecipare anche tramite la nostra pagina Facebook, SMS oppure anche posta elettronica, ma come sapete io preferisco il nostro numero verde per sentire la voce, quindi tra poco cominceremo a sentire anche i primi nostri ascoltatori. Allora, per comprare una nuova TV, al di là del budget che dobbiamo stabilire, perché se abbiamo pochi soldi, gioco forza, andremo su un certo prodotto, però di sicuro, se possiamo, la TV deve essere grande, giusto? Allora, una volta c'erano i vincoli di dimensione schermo, adesso ci sono schermi che arrivano nei TV fino a 90 pollici e a prezzi non pazzeschi, quindi non c'è più un vincolo di dimensione dettato dalla tecnologia. Allora quali sono i vincoli? Io dico che il vincolo con l'alta definizione, che oramai impera, è solo e soltanto lo spazio disponibile in casa, oltre al portafoglio, ma quello si sa che è un vincolo sempre, no? E quindi bisognerebbe orientarsi verso il TV, per arrivare direttamente alla conclusione, come piace a te, Enrico. Quindi bisognerebbe prendere il TV più grande possibile, compatibilmente con lo spazio di cui si dispone in casa. Cioè, se ci sta, va bene. Se ci sta, va bene, perché ormai le distanze di visione corrette per un TV sono distanze che un utente può pensare come molto ravvicinate, ma ci sono studi molto precisi che dimostrano che né si fa male agli occhi, anzi si fa bene agli occhi, perché ci si sforza meno anche per leggere i dettagli, le scritte, le piccole scritte, né si ha una visione poco confortevole se si sta a una distanza di due volte la larghezza dello schermo. Quindi, per avere un'idea precisa, un 46 pollici, prendo questa dimensione non a caso perché è largo poco più di un metro 0,2, ecco, un TV da 46 pollici può essere visto alla distanza di 2 metri. Se lo vediamo alla distanza di 3 metri e mezzo, non muore nessuno, ben inteso, però lo spettacolo è più bello, più coinvolgente, più interessante se lo vediamo a 2 metri. Chiaro che sì, visto che non è che uno sposta il divano avanti e indietro a seconda delle dimensioni dello schermo che ha, più probabilmente avrà il divano a 3 metri, a 4 metri. In alcuni casi i più fortunati hanno anche salotti molto grandi col divano a 5 metri. Ecco, quando un divano è a 5 metri, io direi che qualsiasi dimensione di schermo è disponibile, va benissimo, anche un 90 pollici. Quindi diciamo che è largo 2 metri. Ci sono 90 pollici. 90 pollici ci sono. Quanto costano? Scusi. Costano intorno ai 6.500 euro. Ma pensavo anche di più. Senti, cosa si può trascurare? Se io appunto dico, voglio una TV grande, che cosa trascuro? Cioè, ad esempio, a uno potrebbe non interessare collegare la TV ad internet, potrebbe non interessare il 3D. Allora, sì, è vero, ci sono tante caratteristiche che devono essere sommate. Intanto non esiste il TV ideale, punto. Esiste il TV ideale per me, il TV ideale per te, e un TV modello magari diverso per ognuno dei nostri ascoltatori. Sì. Quindi ognuno deve vedere le proprie esigenze, le proprie caratteristiche, come in tante cose. Ecco, allora, la prima cosa, ho parlato del collegamento a internet. Troppe volte sento dire che lo Smart TV, no, cos'è? È il TV che si collega a internet, o peggio ancora il TV che serve per navigare web. Chi ha navigato web su un TV sa che se non si utilizzano piccoli stratagemmi si tratta di un'esperienza molto demoralizzante, perché TV non è fatta per navigare in internet, perché il telecomando non è fatto per navigare in internet. Quindi se io devo mettere un indirizzo www.dday.it o peggio ancora radio24, che è più lungo, per non citare domini ancora più lunghi, certo, e farlo con il testino numerico del telecomando è molto scomodo. Poi navigare all'interno di questa pagina sempre con un telecomando standard è un'esperienza pazzesca per chi invece magari lo fa col tablet o col mouse. E quindi quello non è il motivo per cui bisogna collegare alla rete, io dico, un TV. Allora, la rete può anche essere rete locale, senza un collegamento a internet, ma è molto importante perché un TV connesso, per esempio, si collega ai dischi, agli hard disk di rete o ai PC e permette di visualizzare foto e video che sono su un PC o su un hard disk di rete. O ancora, con gli smartphone o con i tablet, di cui i migliori TV con porta di rete possono interfacciarsi grazie a delle app specifiche, è possibile per esempio usare il device come praticamente telecomando intelligente, sì, che permette, sì, di inserire, a questo punto sì, tramite smartphone, tramite tablet, inserisco l'indirizzo internet che voglio navigare, ma lo inserisco su un tastierino touch QWERTY del mio device, oppure navigo utilizzando la superficie tattile dello schermo come questo per dire che mouse. Se uno non è particolarmente interessato a questo, potrebbe scartarlo. Ormai quasi tutte le TV sono collegabili ad internet, quindi non è una caratteristica da scartare. No, non è da scartare, è molto interessante, soprattutto in prospettiva. Io lo consiglio vivamente, anche perché sempre più anche delle funzioni che sono tradizionali come il video noleggio oramai passa dallo streaming e passa di lì, il video noleggio va a scomparire, quindi anche semplicemente chi vuole vedersi ogni tanto un film può aver bisogno di aver collegato a internet il TV, tanto più che da un certo punto della gamma in poi, neanche top di gamma, ma diciamo se si escludono proprio gli entry level, ormai i TV sono tutti connessi. E quindi è facile che un sacco di gente porti a casa un TV con la porta di rete senza neanche sapere cos'è una rete. Quindi sono tutti 3D? Sono 3D, anche il 3D è una funzionalità che non è basilare, nel senso che non è che uno cambia TV magari perché vuole a tutti i costi il 3D, ma è una cosa che può essere simpatica o interessante. Esistono diverse tecnologie. Cioè, tu cosa scarteresti per spendere meno? Ma io torniamo al discorso di prima. Io potrei scartare qualche cosa che non interessa a me come utente, col mio profilo di utente. Cioè, potresti scartare... tecnologicamente parlando, diciamo, per mantenere una buona qualità non c'è nulla che si può cioè ad esempio il 3D lo scarterei, ecco, ecco, così facciamo, allora, per esempio me tu, frega niente, proprio zero. Infatti tu come utente puoi scartare il 3D, io magari come utente faccio un esempio, potrei decidere che l'aspetto di design o di materiali, di avere una cornice dello schermo assolutamente inesistente piuttosto che una cornice di 2 centimetri potrebbe non interessarmi. Senti, non darmi fastidio. A proposito dei, tu dicevi c'è un TV per ogni consumatore, ma non ti sembra che ce ne siano un po' troppi? Cioè che comunque questo complichi la scelta, perché ad esempio l'Apple ci ha insegnato che fa un prodotto, c'è poco da scegliere, cioè se vuoi un telefono dell'Apple compri quello. Cioè se i produttori di TV facessero 2 TV, uno grande e uno piccolo, non risolverebbe buona parte dei problemi? Potrebbe essere una proposta completamente nuova, potrebbe essere una proposta completamente nuova, il mercato del TV non è abituato a fare questo. Se io dovessi vedere adesso come è fatto il mercato del TV, direi che ne mancano di modelli e non che ne avanzano. Addirittura. Sì, perché manca tutta una fascia media, no? Di quella che potremmo chiamare poca spesa, tanta resa, no? Che non va a fare economia magari sulla qualità d'immagine, che non va a fare economia magari sull'audio, come succede spesso, perché questo, ahimè, l'audio in negozio non si prova, in negozio non si sente l'audio di un TV. Ecco, questi TV sono diventati sottilissimi, piccolissimi e mediamente suonano molto male. Allora, è chiaro che ci sono delle tecnologie, delle strategie anche costruttive, progettuali, sono molto migliorate negli ultimi anni per avere un audio buono anche in un TV molto sottile, però costano e quindi siccome in negozio non si vende l'audio, è una delle, degli aspetti che viene molto trascurato. Stessa cosa dicasi per il telecomando. Prodotti anche bellissimi, anche top di gamma, anche di marche primarie, sono accompagnate da telecomando da 50 cents. Cose veramente inguardabili, orrende, plasticaccia, anche fuori out of style, cioè fuori proprio dalla linea di design del TV. Sì. Anche quello bisogna chiedere in negozio assolutamente di vederlo, anche se magari il commesso storcerà il naso perché ovviamente è nella scatola, deve andare a prenderlo, eccetera, eccetera. Sì. Il telecomando è l'unica cosa del TV che si toccherà per tutta la durata di utilizzo dell'apparecchio. Sì, molto importante. Poi ricordiamo, ma questo l'abbiamo detto tante volte nelle nostre puntate dedicate al tema, che c'è una modalità con cui ci vengono fatte vedere le TV in negozio che non è la stessa che viene utilizzata quando siamo a casa. Assolutamente no. I TV nascono come impostazione di fabbrica con 2 modalità. Una modalità casa e una modalità negozio. La modalità negozio si attiva con delle sequenze tasti particolari, diverse a seconda di ogni produttore e fondamentalmente pompano, diciamo proprio chiaramente, pompano colori, luminosità e tutta la calibrazione per meglio apparire in negozio per quando un TV è affiancato l'uno all'altro. Se e come si fa quindi a scegliere? La domanda è molto pertinente. In realtà diciamo che in questo modo risulta molto difficile, quindi magari seguire un po' anche leggere qualche cosa che scrive di idee magari può aiutare nell'avere un'indicazione migliore. Di sicuro bisogna, come dire, essere un po' protetti da queste tarature, no? E non inseguire necessariamente il TV che sembra più brillante o più colorato, perché quella luminosità, quei colori, quando sarà da solo a casa sullo scaffale, sembreranno eccessivi, mentre quando sono 100 TV uno a fianco all'altro sembrano i più belli. Quindi non bisogna guardare un TV, è fuorviante vedere i TV in confronto l'uno di fianco all'altro. Allora, tra poco cominciamo a sentire i nostri ascoltatori al nostro numero verde. Come è tradizione, essendo noi una radio, diamo la precedenza alle telefonate, quelle intelligenti, quelle utili insomma per la discussione, più prima degli sms, i tweet, eccetera, eccetera. Gianfranco, però una domanda te la faccio io, visto che comunque su questo ne stanno arrivando e ne arriveranno molte. Plasma ed LCD. Allora, LED, stiamo parlando di tecnologia LCD. Sì, quindi LED sono la stessa cosa. È, chiariamolo ancora una volta, ma non basta mai, è una retroilluminazione diversa per i TV LCD, ma sempre di LCD stiamo parlando, è una retroilluminazione che garantisce prestazioni migliori, ma soprattutto... Cioè ormai sono tutti LCD. Spessore, sono tutti LED praticamente. Cioè, sì, tutti gli LCD sono LED. Però sì, per esempio, visto che i LED sono messi oramai non più dietro il pannello LCD, ma sono messi a fianco, quindi sono i cosiddetti LED edge, sono distribuiti sul fianco, magari è bene informarsi e vedere e capire se sono su un fianco solo, su due lati o su quattro lati, perché le prestazioni in termini di uniformità cambiano molto. Sì, sì. Naturalmente tutto ciò anche per dire, poi parliamo di LCD e plasma, tutto ciò per dirvi che l'acquisto di un TV dovrebbe essere un'operazione, visto che poi si tiene a casa per anni, c'è chi lo tiene 5, c'è chi lo tiene 10, c'è chi lo tiene 20 anni, beh, se uno ci perde qualche ora in più, qualche giorno in più, forse vale la pena portarsi a casa un prodotto che risponde oltre che alle proprie caratteristiche, ma è anche un prodotto magari di buona qualità. Adesso c'è la pubblicità, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, 800 24 00 24. 2024. Riprendiamo questa trasmissione dedicata ai televisori, che giustamente, come ripetiamo sempre nelle nostre puntate, si dice i TV e non le TV, perché le TV sono le televisioni, cioè quelle che trasmettono i programmi, bellissimo, eccetera, vabbè, eccetera. I TV sono i televisori. Vabbè. Apparecchi. Dunque, ricordo anche che io e Gianfranco Giardina da anni, già, allora, soprattutto lui, io faccio le domande, lui risponde, ci occupiamo di questo tema. Quindi se andate nell'archivio su internet, su radio24.it, potete riascoltare tante belle puntate dedicate a questo tema. E devo dire che, ad esempio, tra la diversità tra LCD e plasma, quante volte te l'ho fatta raccontare, Gianfranco? Tantissime. Tra l'altro, ad un ma non solo punto, qui ho dovuto raccontarla, poi sì, è una delle domande, beh, più gettonate. Tra l'altro, una volta mi ricordo che sono passati alcuni mesi in cui dicevi non si può in 3 minuti, in 10 minuti parlare di questo qua. Poi un po' l'ho convinto e adesso ci dà prova che si può fare. Beh sì, si può fare, anche perché il plasma è diventato in termini di quote di mercato assolutamente trascurabile, più che altro non tanto perché la tecnologia non vada bene, ma per un certo disinteresse, direi, dei produttori. Forse è un po' meno redditizio, forse è più difficile da produrre, forse l'LCD con il LED ha avuto anche un battage di marketing molto, molto più importante. Beh, sicuramente il plasma offre in questo momento ancora, soprattutto sui migliori prodotti, una qualità d'immagine incredibile, eccellente. Devo dire che io personalmente la preferisco solo in termini di qualità d'immagine, però, all'LCD. Dopodiché c'è un sacco di difetti in più, consuma un po' più energia, non tantissimo, sì, trascurabile, più. Però, sì. Beh, comunque adesso ci sono le etichette energetiche su TV, sono obbligatorie, quindi si sa precisamente quanto consuma, sì, un TV. Poi magari ne parliamo di consumi, ecco, quindi da quel punto di vista uno può anche scoprirlo subito. E sono anche tradotti in euro all'anno, quindi per un utilizzo medio di 4 ore al giorno l'etichetta dice anche quanto costa, quindi ci si può orientare. E dopodiché i plasma sono più pesanti, non è vero che si scaricano, questo è il solito luogo comune che va sfatato, non è vero che si scaricano e funzionano comunque molto bene. Siccome sono considerati, anche proprio per i risultati di vendita, un po' secondari rispetto agli altri prodotti, succede che magari l'ultima tecnologia, magari correlata alla rete piuttosto che ad altri aspetti collaterali, non sia disponibile sul plasma. È un quindi, problema commerciale, non tecnologico. Beh sì, normalmente sì, direi che si tratta di scelte commerciali. Evidentemente le aziende che producono, è giusto che esercitano la loro libertà e esercitano determinate scelte, uguale se stesso fa il consumatore. Se il consumatore sta scegliendo più LCD, il mercato evidentemente si orienta tutto lì. Però esistono ancora TV al plasma eccellenti. Forse starei attento, siccome molte volte il plasma è utilizzato per far vedere un polliciaggio grande a un prezzaccio, perché ancora il prezzo per pollice mediamente è più basso sul plasma. Ecco, bisogna stare attenti alle offerte da volantino, dove uno sembra che si porti a casa un 50 pollici a un prezzo incredibile e poi chiaro che si porta a casa un 50 pollici a quel prezzo, però è proprio un entry level. E quindi alla fine, devo dire, negli anni la qualità d'immagine degli LCD non è migliorata, si è addirittura stravolta. Cioè 5-6 anni fa un LCD, e questo lo dico ahimè per coloro che hanno in casa LCD di 5-6 anni fa, avevano prestazioni molto scadenti dal punto di vista dell'immagine, sugli scuri che diventavano bluastri, che chiudevano moltissimo. Adesso la tecnologia è nettamente migliorata e quindi la differenza in termini di qualità d'immagine un po' si è chiusa. L'LCD è ancora un pochino più costoso, ma non così tanto, perché ci sono delle offerte eccellenti. Quindi la differenza e la distanza tra LCD e plasma si è chiusa anche nelle preferenze degli appassionati. In molti si stanno orientando sull'LCD, però a patto di andare sui buoni LCD. Sì. Qui attenzione, perché... Però io prendo posizione e io sto dalla parte del plasma. Ok, perfetto. Ma come, lo dico perché ho imparato da Gianfranco Giardina, non perché mi sono... Poi, certo. Vado spesso a vedere, effettivamente, insomma, lo si vede anche poi andando alle fiere, anche nei negozi, anche se, come dicevamo prima, nei negozi bisogna stare un po' attenti. Allora, a proposito di audio, volevo sentire due ascoltatori da Milano, Mario e poi Gianni. Mario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Prego. Sì, io volevo fare una domanda sugli attacchi e sulle prese che ci sono dietro la televisione. Sostanzialmente io ho un utilizzo multiplo della televisione, nel senso, come televisione, come televisore, come televisore, sì, come PS3, la Nintendo DS e anche come computer. A questo punto la domanda che avevo era questa: servono per non avere tutti i cavi HDMI, oppure qualora le prese HDMI fossero di numero inferiore, serve un amplificatore video, oppure l'attuale tecnologia permette di avere una resa ottimale? Ci sono amplificatori sia del segnale audio che video. Sull'audio è chiaro che un impianto home theater rende meglio, ma la mia domanda in particolare era sugli amplificatori video. Sono già superati dalla dotazione delle TV di oggi. Esatto. Certo. Grazie Mario. Pensavo fosse più sull'audio, ma vabbè. No, consiglio chiarissimo è quello di collegare tutto in HDMI, perché è il collegamento digitale che non converte niente in analogico, il miglior collegamento possibile, ovviamente se la sorgente dispone di un'uscita HDMI. Perfetto, ma tu direttamente nella TV? Nel TV? Sì, ah. HDMI, cioè dalla PS3 al TV. Ovviamente i TV oggi dispongono normalmente di 4 prese HDMI. Che sono nella stragrande maggioranza dei casi sufficienti, ma in alcuni casi no. Basta pensare a qualcuno che incomincia a avere appassionato, quindi qualche console, più di una, che ha qualche decoder satellitare, potrebbero finire. Sì. Quindi, se sono finite, allora, diciamo, la soluzione più semplice è un selettore HDMI, quindi avere un apparecchio terzo con 6 ingressi, quattro ingressi. Che io posso selezionare o con un telecomando o premendo un tasto specifico, e quindi in questo modo vado e posso aumentare il numero delle mie prese HDMI disponibili. Il discorso dell'amplificatore audio-video serve a tutt'altro, cioè serve soltanto se c'è un'esigenza di avere un'amplificazione audio, che è una buonissima idea, abbiamo detto, per un TV, però normalmente questi amplificatori offrono anche al proprio interno il selettore HDMI già integrato, quindi non bisogna prendere un selettore ad hoc, sì. Ma al segnale HDMI questi amplificatori normalmente non fanno nulla, quindi lo fanno, semplicemente fanno un routing, entra da una parte ed esce dall'altra. Quindi quando io ho un TV con una sola presa HDMI, per esempio, potrei decidere, se voglio avere anche dell'audio di qualità, di aggiungere un sistema audio e di avere anche la possibilità di avere un selettore HDMI nel mio amplificatore, ma se no non c'è bisogno di un amplificatore. Allora, a proposito di audio, Gianni da Milano, buongiorno Gianni. Sì, buongiorno. L'ascoltiamo. Complimenti per la trasmissione. Io in giro inizio a vedere tantissime proposte di soundbar, queste barre che si mettono sotto il televisore per amplificare l'audio, per sentirlo meglio. Sono valide, vale la pena comprarle? Grazie, ottima domanda Gianni, buon ascolto. Allora, sì, queste soundbar nascono proprio in seguito a questa esigenza. È come se i TV oggi offrissero un audio di servizio, il minimo sindacale, però non vanno oltre, mentre magari sul fronte dell'immagine, della qualità d'immagine, della dimensione schermo, siamo a livelli incredibili, sull'audio siamo così così. Allora, per sostenere l'audio, laddove semplicemente non si vuole sentire a volume altissimo, ma si vuole sentire bene, non è questione di io sento qualcuno che mi dice ma io non metto un sistema audio, non metto niente perché tanto io sento a basso volume, e cosa importa, sentirai male a basso volume, anzi probabilmente siccome si sente male sarai costretto ad alzare di più per capire. Invece con una soundbar, per esempio, si restituisce al TV un audio di qualità. Consiglio, ma tra l'altro più delle volte le proposte nascono proprio così, di associare alla soundbar anche un piccolo subwoofer, cioè normalmente le soundbar sono collegate con un piccolo subwoofer. Per i collegamenti in realtà non bisogna preoccuparsi, sono molto semplici. Tutti i TV, diciamo moderni, dispongono tra le prese HDMI di cui avevamo detto prima, una che ha la sigla ARC, ARC di fianco, che sta per Audio Return Channel. Quindi praticamente su quell'HDMI ritorna anche l'audio del TV, quindi si può collegare in HDMI quella soundbar, che potrebbe avere anche un lettore Blu-ray all'interno, per esempio, perché no? Sì. No? E la soundbar prende l'audio di tutto quello che vedo sulla TV dalla stessa presa HDMI, quindi con un cavo vado in un senso per il segnale video, ma torno anche indietro con segnale audio. Quindi facile installazione, massima resa, spesa contenuta. Certo, un impianto, un theater completo fatto di 5.1 canali, eccetera, eccetera, è meglio, eccetera, certo. È meglio un'altra però cosa. Diciamo, una buona TV tendenzialmente ha anche un buon audio, o non è mica detto? Non è detto, direi che ormai l'audio che possiamo definire buono è oramai appannaggio solo dei modelli top top di gamma. Top top di gamma. Matteo da Modena, buongiorno, benvenuto Matteo. Sì, salve. La mia domanda riguardava un monitor, non so se potete aiutarmi lo stesso. Vai. Io ho preso un monitor 22 pollici dell'LG 3D. L'ho preso principalmente per giocare. Solo che ho letto in giro nei vari forum che per giocare servono i 120 MHz, mentre quello lì arriva soltanto a 60 Hz. Dovevi guardarlo prima però al forum, direi. No, però, Matteo, adesso ti rispondiamo, Gianfranco, possiamo rispondere anche se non è proprio legato al mondo bisogna del vedere, TV. Bisogna però, vedere un po' che tecnologie ci sono, esistono monitor che funzionano col kit NVIDIA. 3D che sono una tecnologia specifica, e ci sono monitor invece che sono in grado di funzionare proprio come i TV e quindi accettano un segnale 3D, quello a frame raddoppiati, sì, quindi esatto, a 120 Hz e quindi 120 Hz e non megahertz. Detto così è impossibile sì, no, rispondere, ma però, visto che insomma non c'entra proprio con il tema, noto che ci sono molti ascoltatori che o sono arrivati in ritardo o non hanno capito, cosa che è valida entrambe. Che continuano a chiamare, qual è la differenza tra LED e LCD? Allora ripetiamo che ripetiamo. La tecnologia, lo dico io così vediamo se ho capito, sì. Limite ti correggo. Esatto. La tecnologia esiste solo LCD da una parte e plasma dall'altra, i LED sono la retroilluminazione degli LCD, che una volta era fatta con i neon, però sono sempre LCD. Ad esempio uno dice, ma meglio comprare LCD o LED? No, non c'è... Si tratta di LCD in entrambi i casi. Esatto. Giovanni da Milano, buongiorno Giovanni. Buonasera. Buonasera, ragione lei, giusto. E buonasera e complimenti per la trasmissione. Ascoltate, ci sono degli smart TV che hanno questa caratteristica, tuner satellitare S2 e tuner digitale T2. Che cosa sono? Un po' lo so, però volevo sapere se uno deve aggiornare l'antenna in caso. Adesso sentiamo da Giardina cosa ci dice. Però spieghiamo anche che cosa sono, Gianfranco. Sì, sono delle evoluzioni dei sistemi di trasmissione. Onestamente il tuner satellitare può essere comodo, però bisogna ricordarsi che Sky, tanto per, diciamo, per, quasi per citare, no? L'unica offerta non può essere visto con un TV, ci vuole comunque il decoder perché non c'è una cam, quindi non si può inserire la schedina di Sky, cioè, nel TV. Con quel ricevitore si possono ricevere solo i canali gratuiti che vengono irradiati dai satelliti. Sì, ma... che sono pochi. O se no si può fare l'offerta di TV SAT, che è quella di garanzia, diciamo, per tutte le zone in cui non si prende il digitale terrestre, no? Ce la si può cavare con gli stessi canali del digitale terrestre, tranne le TV locali, che sono emesse da TV, che è un consorzio fatto fondamentalmente da Rai, da Mediaset e Telecom Italia Media, proprio per trasmettere gli stessi canali via satellite per chi non riceve il digitale terrestre. Ma veniamo alla domanda sul DVB-T2, soprattutto sul digitale terrestre di seconda generazione. Ecco, questo è uno standard che in questo momento utilizza soltanto un emittente in Italia che si chiama Europa 7, che è un emittente pay TV, che in realtà ha un'offerta molto, molto contenuta se escludiamo la serie B. Il campionato di Serie B, per cui hai i diritti quest'anno per tutte le partite non già coperte dagli altri gestori. Però diciamo anche che è una tecnologia, Gianfranco, tu mi dici sempre che forse, se si vedrà, la vedremo fra qualche anno diffondersi, diciamo, al pubblico in, allora, in il DVB-T2 non è compatibile all'indietro, quindi significa che chi ha un TV non DVB-T2 non potrà vedere mai una trasmissione DVB-T2 se non con un decoder esterno. Quindi passare dal DVB-T, che è lo standard attuale, al 2, che è quello nuovo, significherebbe fare un nuovo switch off, quindi cambiare tutti i TV e tutti i decoder. E questo ormai, no, con le emittenti, diciamo, tradizionali non si potrà mai fare più, perché almeno per molti anni, per molti anni, credo che arriverà prima oramai una fruizione della TV via rete prima che accadrà questo. Mentre il DVB-T2 può essere adottato, per esempio, dagli operatori pay TV che dicono: sì, vuoi vedere il mio canale? Beh, compra questo decoder. A questo punto, che ci sia o non ci sia nella mia TV cambia niente, perché tanto devo avere un decoder. Sì, quindi... beh, a quel punto potrebbe cambiare niente. Oppure, diciamo, per un TV compatibile, ammesso che ci sia una cam, quindi l'unità di lettura delle card, potrei utilizzare anche solo quello. Direi che in questa fase è una funzionalità che io trascurerei. Sono le 16:47 minuti, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Sentiamo e salutiamo Davide, che ci telefona da Forlì. Davide, buongiorno. Buongiorno, anzi, buonasera a tutti. Esatto, c'aveva ragione l'ascoltatore di prima a dire che buonasera, giusto? Senti, ormai con questo tempo. Nevica Forlì? Nevica, non tanto, ma insomma nevica. Perché abbiamo visto in TV prima qualche immagine della Riviera Adriatica con la neve, che è sempre... Sì, ma noi abbiamo ancora memoria della nevicata dell'anno scorso, per noi questa, come disse un vecchio romagnolo, questa ce la spaliamo con le ciabatte ai piedi. Questo è bello. Senta, lei è preoccupato dei consumi delle TV? Sì, perché mi è capitato, è raro trovarli, i televisori esposti dove si vede anche il dietro. E mi è capitato di vedere, non in televisori enormi, quindi in medie dimensioni, la targhetta dietro con tutti i dati tecnici, di cui c'è anche il consumo, l'assorbimento. E ho visto che arrivano anche a 500 watt, che sono quasi mezzo kilowatt, insomma. E per un televisore che in casa, specie con i bambini, a volte si tiene accesa anche per far compagnia, inizia ad essere un bel consumo. Sì, adesso però giustamente Gianfranco dice bisogna spiegare una cosa, però è l'unica domanda che ha o voleva aggiungere? Sì, no, era qualcosa? Questa la domanda, per sapere se il consumo era effettivo, se era quello, o se è un consumo magari solo se viene sfruttato al 100%, perché sono televisori talmente tecnologici che noi poveri umani non capiamo, insomma, fino in fondo. Davide, grazie. Prego, bocca al lupo per la neve. Allora facciamo una distinzione netta tra l'etichetta energetica, che è obbligatoria sul frontale dei TV, è obbligatoria anche sulle scatole quando sono esposte nei grandi centri commerciali, proprio a pallet, solo con le scatole. Quando c'è in vendita di TV deve esserci sempre visibile l'etichetta, e questa è l'etichetta che spiega il consumo medio e quanto si spenderà anche in euro per gestire con una visione di 4 ore al giorno, quindi in alcuni casi è anche importante perché c'è chi la guarda anche molto meno di 4 ore al giorno, e quindi spiega quanto costa. E l'etichetta, quella che è andata a vedere il nostro ascoltatore, quella posta nel retro del TV, che è obbligatoria per motivi di legge anch'essa, ma per motivi di impiantistica elettrica. Ecco, lì deve esserci segnato sull'etichetta posteriore il massimo assorbimento possibile di quel TV nelle peggiori condizioni possibili, e questo evidentemente è necessario per dimensionare la linea elettrica, cioè, se no salta la valvola, ecco, la valvola. Certo, ma non è quello che consumiamo in realtà, è sicuramente non è quello che consumiamo sempre. Questo vale soprattutto sui plasma. I plasma consumano di più quando fanno il bianco, quando fanno uno schermo bianco, perché devono accendere, e consumano meno o quasi niente, diciamo pochissimo, quando fanno uno schermo nero. A seconda di quello che vediamo, il consumo varia. È chiaro che sull'etichetta, quella tecnica, deve essere segnato il massimo assorbimento, quindi schermo bianco, massima luminosità, volume al massimo, e poi si prende anche delle tolleranze per essere sicuri che la linea elettrica non sia sottodimensionata, e viene dato questo valore. La cosa diversa è il consumo che avrò vedendo un contenuto medio qualsiasi. In realtà questo funziona anche in parte con gli LCD. Sappiamo che il consumo dei TV LCD dipende in linea per al 70%, diciamo, dalla retroilluminazione, e la retroilluminazione può variare a seconda anche lì delle immagini. Se devo far vedere immagini molto luminose sarà più luminosa e consumerà di più. L'intensità del LED aumenta. I migliori TV hanno un sensore di luminosità ambientale, quindi verificano quanta luce c'è nell'ambiente e diventano più luminosi e invece abbattono la luminosità la sera per non essere fastidiosi. Certo. Ecco, è chiaro che di giorno consumeranno un po' di più. Senti. E di sera un po' di meno. Una domanda, che è l'ultima domanda di questa puntata, ma il consumo di questi televisori è così importante o è una cosa che possiamo trascurare quando scegliamo il prodotto? Allora, sicuramente è meglio orientarsi verso un classe A, almeno. Poi ci sono le classi A+, eccetera, eccetera, le classi ancora superiori. Bisogna stare attenti perché molte volte passare dalla classe A alla classe A+, si ha un risparmio in euro di 2 euro l'anno. Cioè, è una cosa assolutamente trascurabile. Quindi, io più che guardare la classe, invito a guardare l'etichetta dove c'è il costo di gestione. Perché alla fine, quando parliamo di consumi energetici, sì, siamo tutti abbastanza green per proteggere il nostro ambiente e i consumi, però in questo momento soprattutto l'occhio al portafoglio è quello che fa la differenza. Guardate quanto spendereste, e tra l'altro essendo dati standard e calcolati in maniera standard, il confronto tra un TV e l'altro risulta facile. Poi chi lo userà più di 4 ore sa che spenderà un po' di più, chi lo userà meno sa che risparmierà un po', ma la differenza tra un televisore e l'altro si fa in pochi secondi. Guardate i costi di esercizio che sono segnati in euro sull'etichetta. Bene, adesso noi ci trasferiamo in negozio e andiamo a vedere qualche TV, giusto per verificare le cose che ci siamo detti fino adesso. Naturalmente ricordo questa guida di dday.it, quindi www.dday.it all'acquisto della TV, perché ci sono molte altre caratteristiche che naturalmente noi oggi non abbiamo fatto in tempo a raccontarvi. Grazie a Gianfranco Giardina, direttore appunto del magazine digitale dday.it. Gianfranco, buon lavoro, a presto, grazie. Grazie mille. Grazie anche a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi durante la settimana, 2024@radio24.it. Ci potete trovare anche su Twitter, su Facebook e naturalmente anche sul nostro sito internet, dove trovate anche la registrazione, quindi la versione podcast di questa puntata. Torniamo la prossima settimana, per ora un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.